Benissimo, direi. Intanto saluto tutti i nostri ospiti, le gentili signore e signori che sono qui con noi questa sera, e voglio salutare anche i nostri ospiti. Inizio da Alessandra Limetti, che darà voce a questa serata con la sua capacità attoriale di lettura e di interpretazione, ma anche questo coinvolgimento nel narrare, nello spiegare, nell'illustrare le immagini che vedremo. Ringrazio il nostro autore che è qui con noi, Freddy Lungo, un grande ritorno dopo tanti anni, penso, e anche un felice ritorno, sì. Ma noi siamo sempre no, comunque, ecco, ci siamo salutati una dozzina di anni fa in via Mendola 5, quando venne presentato il libro dedicato a Marilyn. Al cinema. Esatto. Accanto a Marilyn, esatto, e fu un grande successo, e anche in quell'occasione c'era con noi Marco Bernardi, certo. Vero? Che salutiamo, è qui in sala con noi, anche questa sera ci accompagnerà alla scoperta e alla riscoperta del genio e del talento di Freddy Lungo. Però mi piace quello che noi abbiamo trovato sul Sole 24 Ore, vero? Abbiamo, ecco, Freddy Lungo è l'uomo di molti ingegni, la fotografia e la penna tra questi. Stavolta parla con asciutti scatti di viaggio e momenti di vita sospesi, narrazione emozionata. E quindi con questo noi partiamo e vediamo subito un filmato. Iniziamo così, va bene? La gente non sorride più, vediamo un mondo vecchio che ci sta crollando addosso. Ma che colpa abbiamo? Thank you. Resurrected in the Imperium, Jehovah, Jehovah, Jehovah. Avevo poco più di 6 anni quando strinsi il primo burattino di legno che raffigurava un bimbo della mia stessa età. A crearlo fu mio nonno paterno, falegname e scalatore. Durante l'ultimo conflitto bellico aveva aiutato gli ebrei e i dissidenti politici a trovare clandestinamente i sentieri di confine per avere salva la vita. Fin da allora i burattini mi hanno fatto sognare, soprattutto quando mia madre li faceva muovere attaccati ai fili e li faceva parlare con la sua stessa voce. Erano passati anni e un giorno, per raggiungere prima che chiudesse la mensa universitaria di Parma, presi una stradina che, come per magia, mi fermò davanti a un laboratorio di marionette. Era della famiglia Ferrari. Rimasi affascinato dal racconto delle loro storie. Avrebbero lavorato per Fellini e con altri registi di teatro. Nel 1982, istintivamente accesi la televisione, vivevo ancora con i miei genitori, e su un canale stavano trasmettendo il film di Bergman, Fanny e Alexander, della durata di 5 ore. Staccai il telefono, presi la caraffa d'acqua, mi sedetti per terra e intuii che avrei visto il film più bello della mia vita. Fu così. Alle prime luci del mattino entrai nel letto, senza riuscire a chiudere gli occhi. Bergman, la sua poesia, la vita dei fratellini Fanny e Alexander da lui raccontata, le luci e i colori del fotografo Sven Nykvist mi stavano stregando. Ma soprattutto i burattini di legno, che sarebbero stati i miei compagni di gioco, i compagni di gioco e di vita dei due fratellini. Dopo la morte del padre, vanno a vivere nella casa prigione di sasso freddo del vescovo che aveva sposato la loro madre. Ma con l'inganno riescono a nascondersi nella casa di un rigattiere amico della madre. Davanti ai loro occhi, per magia, incominciano a muoversi dei burattini di legno colorato. Diventeranno i loro più cari amici e si muoveranno seguendo le loro emozioni e la loro fantasia. L'emozione fu grande quando venni a sapere che a crearli era stata la famiglia Ferrari di Parma. Commosso, li ringraziai della magia che mi aveva trasmesso. Ma la magia era appena iniziata. Un'estate di qualche anno fa mi trovavo in Scandinavia per rivedere, aiutato dalla macchina fotografica, la storia di quello stupendo continente. Ero riuscito così, spiandoli attraverso l'obiettivo, a far rivivere la casa di Ibsen, il laboratorio di Strindberg, il primo set cinematografico di Bergman. Sbirciai alcuni registri, avevo corrotto simpaticamente la segretaria e su uno di essi trovai le foto dei burattini di legno colorato, compagni di gioco di Fanny Alexander. Avrei dovuto rubare quel registro, ma perché non lo feci? Però capii che tra i protagonisti del mio nuovo impegno di storia vissuta, binari interrotti, ci sarebbero stati i burattini della famiglia Ferrari. Sarebbero stati loro a forgiare il primo treno. Mentre li fotografavo mi tremavano le mani, temendo di perdere l'obiettivo, di non trovare lo stimolo o che mi sparisse la fantasia. Mi tornarono alla mente il mio nonno paterno, che mi aveva regalato il burattino fatto da lui, mia madre, che con la sua voce toscana dava la voce ai burattini che mi avrebbero accompagnato con i sogni e la fantasia. Ero certo che avrei dato vita, solo con l'obiettivo, a qualcosa che avrebbe commosso e fatto ancora sognare. E i binari interrotti li avrebbero fatti salire. Così è stato. 1980. Anno insolito, carico di emozioni, novità e tragedie. Il presidente americano Jimmy Carter boicotta le Olimpiadi che si tengono a Mosca. Umberto Eco pubblica Il nome della rosa. Il giudice Guido Galli viene ucciso dai terroristi di prima linea. Il monsignore arcivescovo Oscar Romero viene assassinato. Muore il maresciallo Tito. Il giornalista del Corriere, Walter Tobagi, viene ucciso da un commando terrorista. A New York viene arrestato Sindona. Fine dell'era maoista. Lech Wałęsa tratta con il governo polacco e nasce Solidarność. In America, come nuovo presidente, viene eletto Reagan. Il terremoto in Irpinia causa più di 3.000 morti. Il 2 agosto alle 10.25 una bomba messa nella sala d'aspetto di seconda classe della stazione ferroviaria di Bologna causa la morte di 84 persone. Stazione di Bologna, novembre 1975. Riesco a salire di corsa sulla littorina che da Bologna mi porta a Parma, dove dovrò discutere la mia tesi di laurea, la cartella per la gestante. Il caldo è soffocante e l'odore di metallo e del disinfettante che esce dalla toilette è appiccicaticcio. Ma il sapore della mortadella dei panini, nelle mani dei giovani studenti, mi porta un leggero respiro. Potrebbero essere i miei fratelli minori. Al loro sorriso spontaneo chiedo se posso sentire il prologo della mia tesi. La luce è fioca. Il rumore delle rotaie è stridulo. Ancora il computer portatile non era stato inventato. Alcuni fogli della tesi mi scivolano dalle mani per finire in terra, ma vengono subito raccolti da uno studente premuroso. Sono felice. Domani sarò dottore. Ma subito mi spavento e guardo fuori dal finestrino. Dallo studente che ha raccolto i fogli della mia tesi mi viene offerto il panino con dentro la mortadella. Hanno messo una bomba nella stazione ferroviaria di Bologna, che ha investito in pieno il treno Ancona-Chiasso sul primo binario, annunciano alla televisione. Cerco di telefonare ai miei genitori, ma devo fare la fila. I telefonini non sono ancora stati inventati. Alla fine ci riesco. Mi trovo a Ustica. Il mare è tranquillo, il vento porta un po' di sollievo in un'estate che sarà lunga e soffocante. Il progetto che hai in mente è strepitoso, però mi devi garantire che ce la farai, mi dice Gabriella Belli, direttrice dei Musei Civici di Venezia. Il libro fotografico, che si chiamerà Binari Interrotti e che attraverso i finestrini dei vagoni del treno strapperà e racconterà la storia del nostro paese e del resto del mondo, è pronto. Avevo 3 anni quando sono salito sul treno Merano-Livorno, città natale di mia madre. Da allora è stato il mio compagno e confidente e diventerà romanzo della mia vita. Incontri casuali e voluti, studenti, casalinghe e uomini d'affari. Cenerentola che, afferrata alla crudeltà della vita, non aspetterà il principe azzurro. Attrice in disarmo. L'avvocato che vuole commuovere i passeggeri frettolosi con Pinocchio. Marilyn che sogna Kennedy. Marionette di legno colorato che creano il treno per far salire il passeggero in ritardo. Mimi azzardati nel capirsi. Ballerini di tango che riscoprono di amarsi. Il Modigliani dimenticato sul marmo della sala d'aspetto della stazione. Miró disegnato sulla scalinata che condurrà i binari. Il portacipria di smalto e di brillanti che il corteggiatore regalerà alla signora seduta di fronte. Disegni pop e la Nutella che si intrufola nella cartina dei binari. Ma ecco, l'ombra del mostro che porterà alla disperazione e alla tragedia. Segnata il 2 agosto 1980, ore 10.25, alla stazione di Bologna. In un attimo spariti il profumo della mortadella dentro il panino offertomi dallo studente che raccoglie i fogli della mia tesi, il vociare dei bambini che stretti nella mano della madre saliranno sul treno per il mare, sparito tutto. Ma io non voglio, urlo, impreco contro il mondo, contro l'universo. La macchina fotografica è la mia arma che, affilata, entrerà nelle pieghe dell'orrore per far rinascere il sogno, la luce, la realtà. Chiederò aiuto a tutti. Il mattatoio diventerà lo scenario della tragedia. Ma, ripulito, tornerà la sala d'aspetto di seconda classe dove ragazzi copriranno, con pupazzi colorati creati da loro, i segni della tragedia. Questi erano dei testi che Freddy Longo ha scritto in qualche modo collegati al libro di fotografie di cui parliamo oggi. Te l'ha chiesto Alessandra, quindi sono testi che hai scritto proprio per questa circostanza, per oggi. Per Alessandra, sul serio, veramente. Se non ci fosse stata tu non li avrei mai fatti, perché vorrei tornare tanti ricordi, tanti dolori, ma anche tante gioie. E tu mi hai convinto. Li ho fatti tutti in una notte, ma ma di fretta, a mano, neanche sul computer, dicendo, ne vale la pena, lo faccio, sì, lo faccio, e l'ho fatto. Ecco qua. Ecco, e quindi hanno in qualche modo accompagnato e rinfrescato, diciamo, questo libro di fotografie, immagini che avete visto prima, perché il video che abbiamo visto, tutte le immagini del video fanno parte di questo libro di fotografie, molto bello. E questi testi sono legati proprio a quattro capitoli. Li fate apposta. I quattro che hai fatto apposta legati a questi capitoli. E, caro Freddy, sai che io mi ricordo il primo giorno che ci siamo incontrati? Ero più giovane, fin da Anch'io. Ingenuo, no? Anch'io. Era, adesso lo racconto, erano i primi anni Ottanta, io ero giovane, se non giovanissimo, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, da poco. Freddy mi chiese un appuntamento e venne un pomeriggio, mi ricordo un pomeriggio caldo come oggi, d'estate, si presentò da me in Galleria Telser a Bolzano. È vero. Ed era, per me, io lo conoscevo, era in realtà un personaggio uscito dal secondo atto del Giardino dei Ciliegi di Chekhov. È vero, vestito di bianco, col cappello, era un bel uomo, bellissimo uomo. Era veramente un ragazzo, eravamo ragazzi tutti e due, ed è stata veramente un'apparizione. E mi portò, voleva farmi leggere un suo testo teatrale, che se non sbaglio, di questo non sono sicuro, però perché poi sono passati tanti anni, se non sbaglio il titolo era La famiglia nonostante tutto, è possibile? Perché torna. La famiglia su di me ha sempre danneggiato e aiutato l'uno e l'altro. Che, allora me lo ricordavo giusto, è un gran titolo secondo me, ne ho parlato l'altro giorno a Patrizia Milani, mia moglie, e gli ho raccontato questo titolo e mi ha subito detto che titolo fantastico, è vero, vero, un gran titolo, vero. Perché racconta molte cose. Vabbè, questo non c'entra niente con oggi. Io ti volevo chiedere, tu sei poeta, sei scrittore e sei fotografo, artista sì, della vero, fotografia, vero. Ma tra scrittura e fotografia, no? Sono due mondi molto diversi, radicalmente diversi. Non è vero. C'è parentela, c'è opposizione, certo, c'è contraddizione, certo. Sono due parti di te, raccontaci un esatto. Po'. Come hai messo assieme questi due esercizi? Io sono il fotografo della quotidianità. Uso la macchina fotografica, sto tornando alla pellicola, perché oggi ho la digitale, secondo me la digitale fa tutti bravi. Invece nella fotografia, come nella poesia, nella letteratura, bisogna rischiare, andare avanti. Io ho sempre fatto, sia nella letteratura, sia nella fotografia. Quindi certi miei romanzi, come Istanbul, non sarebbe stato così efficace senza l'apporto della fotografia. E usai la pellicola. Mi giravo per questa Istanbul pericolosa, io incosciente, nascondevo la macchina fotografica sotto la giacca e fotografavo. Andavo senza paura, senza dire no, perché è giusto rischiare, secondo me, veramente. E anche a Cuba, diciamo, lì è stato molto rischioso, perché venni mandato a Cuba e ancora non sapevo nulla, no, di Fidel Castro, così così. E andai e dissi, voglio intervistare e fotografare questi poeti di cui avevo sentito parlare ma non conosciuti di persona. Arrivo e mi dimentico i loro indirizzi. Allora chiamo un dirigente della Feltrinelli, mi dice, ah, lo sapevo, non ci staresti riuscito, guarda, ti do il nome di questa Irina Maria Rodriguez, la più grande poeta cubana, ma nessuno è stato da lei intervistato, neppure io, forse De Rofò, forse Gina Lollobrigida, ma non di certo tu. E io per ripicca quel giorno andai nel palazzo dove lei presentava i suoi amici poeti, portai un mazzo di fiori e glieli diedi. Dico, sono qua. Lei mi guardò e in italiano disse, mi piaci, con te faremo tante cose, ti farò intervistare tutti i poeti, soprattutto quelli dissidenti, E così è stato. Sono stati dei mesi favolosi, questi poeti, questi amici. Mi ricordo la poetessa Fernandez, che era stata già messa al bando da Fidel Castro, che mi disse: tu mi piaci perché mi hai parlato di Puccini, mi hai parlato del cinema italiano, di Fellini, ma che bello averti conosciuto. Poi quando sono partito, tutti questi poeti mi hanno dato le loro poesie che erano state vietate, dicendo: ti prego, fai qualcosa. Io appena arrivato a Milano chiamo l'editore e dico: io non so nessuno, ho intervistato dei poeti favolosi e loro mi hanno dato le poesie che Fidel Castro ha messo al bando, ma sai cosa facciamo? Ora le facciamo tradurre. E così è stato. Il libro ha avuto un successo incredibile, tutti l'hanno voluto leggere, solo che poi a Cuba non sono più potuto tornare e mi è rimasta quella malinconia di non rivedere quei poeti. Alcuni saranno anche morti, scappati, fuggiti, però quel ricordo, quelle luci, quelle voci, la stessa Havana, quelle strade, la loro musica di notte a tutte le ore, sì, sono stati due mesi stupendi e sono contento di averli vissuti. So che non potrò riviverli e questo mi fa molto male, questo veramente. Diciamo, la fotografia poi non mi ha aiutato nel libro A colazione con Marilyn. Quella è stata una grande sfida, Marilyn. Ho detto: queste grandi dive, Eddie Lamar, Marilyn Monroe, Joan Crawford, ma cosa hanno in comune con la donna comune, con la donna che con 1.000 euro deve mandare avanti la famiglia? E io quest'unione l'ho trovata. Hanno la stessa struggenza di vivere, gli stessi inganni che l'uomo dà loro, però anche la loro forza. Qui c'è un grande amico mio che ha scritto un libro su Medeni. Ti puoi presentare? Mi chiamo Vincenzo Flore, sono uno psichiatra, ho scritto un libro su Medeni. E perché l'hai scritto? Per quale motivo? E come giudichi Marilyn Monroe? E le dive sue colleghe? E la casalinga? La puoi associare a Marilyn? Hanno le stesse inquietudini? Le stesse frustrazioni? Certo. L'immagine pubblica è quella della donna più famosa al mondo, no? Cioè. La diosa più famosa del cinema. La vita privata, lei ha un'infanzia, un'educazione. Questo lo sappiamo, ecco. Eccetera, eccetera. Il contrasto è massimo. Quindi lì non ho usato la macchina fotografica. Non volevo entrare nella loro intimità. A parte che queste dive che ho conosciuto erano già morte. Quindi cosa potevo fotografare? La casalinga, sì, paragonandola alle attrici, ma dove erano? E così l'ho scritto e basta, senza l'aiuto della macchina fotografica. Non so se è fatto bene, so che alcuni mi hanno rimproverato dicendo: tu in quel libro avresti dovuto mettere anche delle foto datate. Ho detto: ma non fate da me. Ecco perché non l'ho messa. E ti piace di più scrivere o fotografare? Entrambi, perché mi piace rischiare, sia nella foto che nella, ne, nel, nello scrivere mi piace rischiare, se no non vale la pena. So che quando uscì a colazione con Tennessee Williams fu uno scandalo enorme, i perbinisti, che si vergogni una cosa, mentre quelli più azzardati, finalmente un po' di verità, le mie sorelle, i panni sporchi si lavano in casa. Mia madre l'hai scritto, ora devi avere il coraggio di portarlo avanti, se no non devi scriverlo. E così è stato. È un libro che tutti dovrebbero leggere, tutta la verità di quegli anni, le paure, l'angoscia, ma anche la forza di andare avanti, di dire io continuo. La cosa più tragica fu quando andai a Buenos Aires, lì veramente rischiai. Andai e misi in luce, diciamo, la cooperazione della Chiesa con la Polizia di Stato. Lì fu un grande scandalo. Mi venne incontro mio cugino Monsignor Canal, che riuscì ad appianare tutto. Lì ho usato la macchina fotografica, sono entrato di notte e se tornassi indietro lo rifarei, sì, davvero. È un libro particolare, molto sincero, ecco. Io l'ho letto il libro su Tennessee Williams, tra l'altro, e anche quello di Merino. Chiediamo ad Alessandra se ci legge altri due di questi pezzi. Dimmi che... il tuo parere. No, è bello, te l'ho già detto anni fa quando l'ho letto, ma il libro bello, sì, libro bello, forte. Ma scandaloso, per un artista non c'è niente di scandaloso. Chiediamo ad Alessandra se ci legge altri due capitoli di queste cose che ha scritto apposta, Freddy, mira, apposta, sottolineato tre volte per questa serata, per voi. Cosa? Ci dici anche i titoli dei capitoli? No. Allora, Freddy mi ha dato dei numeri, non mi ha dato dei titoli. Comunque il primo dovevo inventarli io. Allora, il primo è i burattini, ovviamente il primo che abbiamo letto, sì. Prima e l'altro 2 agosto 1980. Allora, questo che leggo ora, avete visto le foto che sono passate, si intitola Tango ed è una storia molto particolare. Dopo le 2 di ogni pomeriggio andavo al caffè a bere il cappuccino. Il giorno in cui conobbi l'uomo che ogni mattina si sedeva allo stesso tavolino davanti al mio, alternando Der Spiegel con The Washington Post, mi disse di lasciare affogare la mosca finita dentro il mio cappuccino. Un viso interessante, virile, con qualche anno meno del mio. Le unghie delle dita lucide e perfette. Le posso chiedere se le piace la musica classica? Per nulla stupito della mia domanda, rispose: sì, sono architetto e maestro di tango. Sto pensando di realizzare un libro fotografico sui treni, dove le mie foto rispecchieranno la storia del nostro grande e inutile paese. Una grossa produzione finanziata da Gabriella Belli, direttrice dei Musei Civici di Venezia. La mia compagna di tango è stata anche la mia compagna di vita per alcuni anni. Abbiamo girato il mondo. Poi si è innamorata di un ingegnere. La potrei contattare, non crede? Nacque così, una nuova amicizia. Non potevo immaginare che un giorno mi avrebbe salvato la vita. Daniela era il suo nome. Si presentò alla stazione ferroviaria puntuale e con ai piedi le scarpe da ballo. Dopo qualche secondo e un bacio sulle guance, incominciarono a muoversi. Quando, dopo la morte di mia madre, andai a Buenos Aires, non avrei immaginato che avrei preso, sebbene senza emergere, lezioni di tango. Forse per equilibrare la mia invasione interrogatoria nelle famiglie di quella che un tempo si sarebbe potuta chiamare alta borghesia. Stavo scoprendo verità assolute, come la collaborazione della Chiesa e dell'alta borghesia con la Polizia di Stato. Stefano e Daniela, con i loro sguardi, le loro labbra, le loro carezze, i loro passi, stavano seguendo l'armonia della confidenza ritrovata. Ci siamo rincontrati e rinnamorati grazie al tango e al tuo invito, mi aveva detto Stefano. Per ringraziarlo tornai alla pellicola in bianco e nero, lasciando la digitale alle illusioni fotografiche di ognuno. Il nostro lavoro e impegno erano terminati e un pomeriggio Stefano mi confidò che lui e Daniela erano tornati insieme. Improvvisamente eravamo seduti al solito caffè, stramazzai a terra. Stefano chiamò la Croce Rossa e con le mani prese a massaggiare il mio cuore. Mi svegliai al pronto soccorso dell'ospedale. Accanto a me c'erano Lillo e Camilla, i miei nipoti, chiamati da Stefano con il mio cellulare. Venne chiamata anche Gabriella Belli. Il tuo amico Stefano è stato solerte e chiaro, mi ha tranquillizzata. Allora, appena ti riprendi, incominciamo. L'editore ha detto che il nostro libro, Binari Interrotti, è splendido e bellissimo il video, Il peso della storia, realizzato dal regista Stefano Balla. Alla presentazione del video e del libro al Museo Capesaro di Venezia, pur invitati, Stefano e Daniela non vennero. Non li rividi più fino a quando un pomeriggio mi girai per vedere chi mi stesse toccando la spalla. Grazie a te, Daniela e io stiamo aspettando un bambino. Grazie a te, sono ancora vivo. Ci abbracciammo con gli occhi lucidi. Camilla. La polizia della stazione principale di Milano mi blocca mentre sto fotografando Camilla, 20 anni di bellezza. Alla domanda della polizia, se ho il permesso, rispondo che sto fotografando Camilla che sta aspettando il principe azzurro. Sarà una bellissima Cenerentola, auguri, dice la poliziotta del gruppo. Camilla non si fa attendere. Affronta lo sguardo malefico della strega e ascolta il grillo saggio di non mangiare la mela avvelenata. Dalla piccola scatola magica di cartone prende ricordi di famiglia e la lettera che sua nonna materna aveva mandato al nonno durante la guerra. E il fermaglio d'oro per i capelli, impreziosito di pietre, che indossa nell'attesa che il principe azzurro arrivi. Ma il suo sguardo cade sulla pagina del quotidiano, che mostra la foto degli studenti kenioti uccisi dai guerriglieri nel campus. Non è più tempo per giocare. Toglie dai capelli il prezioso fermaglio, copre con le proprie scarpe da ginnastica rosse la terribile foto e fugge lungo il binario di luce metallica, deserto. È la sua risposta alla violenza della guerra ignobile che ammazza i giovani studenti che hanno appena iniziato a vivere. Alla fine del binario c'è una luce, improvvisa e chiara. Camilla intuisce che ha appena iniziato a vivere. Camilla è mia nipote, figlia di mia sorella Cinzia. Si è sposata il 12 aprile di questo anno. È farmacista. È una bravissima cavallerizza, passione che condivide con Giuseppe, suo marito. E a ogni concorso mette tra i capelli il prezioso fermaglio. Senti, Freddy, un tema che certamente è centrale nella tua vita è il viaggio. Il viaggio, sì. Cosa vuol dire per te? Perché hai questa febbre del viaggio? Forse perché non ho mai imparato a guidare, quindi ho detto, il treno mi può dare delle magie, degli incontri. Infatti ho incontrato personaggi favolosi, incredibili. Anche adesso, che ho 70 anni, quando salgo su un treno qualsiasi, dico, chi incontrerò? E col passeggero che mi sta davanti, gli domando, lei cosa fa? A volte non mi rispondono, a volte invece riusciamo a stabilire un certo contatto, una certa intimità. E questo mi fa molto piacere. Poi dico a loro, mi date la vostra email, così ci manteniamo in contatto. Se presento qualche libro, vi invito. E loro, certo. E alcuni sono venuti, alcuni hanno comprato i miei libri, alcuni non l'ho più rivisti. Però il treno, che meraviglia, il treno. Io mi ricordo, dopo 3 anni, quando presi il treno per la prima volta, andammo a Livorno, città natale di mia madre. Mia madre mi portò subito lungo il mare e mi insegnò a nuotare. Infatti ho cominciato prima a nuotare che a camminare. Poi mi portava lungo la passeggiata dedicata a Mascagni, con quelle cose per terra, stupende, meravigliose. E io capì che da quel momento mi sarei attaccato al mare, mi sarei attaccato ai treni, però contemporaneamente in me stava nascendo la passione più bella della mia vita, il cinema con la C maiuscola. Fu mio padre che mi insegnò il cinema. Lei voleva presentarsi alla Sciaradoppia, poi purtroppo, perché era incinta, non poteva andare. E io dissi, ci penserò io. Infatti nel 72 io dovevo presentarmi a una manifestazione, il cui ricavato poi sarebbe andato al movimento studentesco. E io dissi, no, per carità no, voglio andare in America. È il 72, quanti sortilegi devo vedere, quante cose l'America mi darà, e quante cose la vita, e quante cose soprattutto il cinema. C'è chi mi accusa che io ragiono come un regista, come un cinema, e forse è la verità. Io qui vorrei parlare un attimo di un grande amico, un vero amico. Si chiamava Luca De Filippo, figlio del grande Edoardo. Quello che ci univa era l'amore per il cinema. E lui una volta mi disse, Freddy, io voglio scrivere una sceneggiatura, mi dai una mano? La possiamo scrivere assieme? Io, certo, certo. E una volta ebbi l'invito dal più grande festival della poesia internazionale di Genova. Io ero, sì, avevo scritto dei libri di poesia, ma non pensavo che potessero suscitare la curiosità di questi organizzatori di questo festival importante, così. Dissi, ma cosa faccio? Ma cosa dico? C'è Ferlinghetti, c'è Sassimic, la figlia di Arthur Miller, io sono un semi sconosciuto. Chiamo Luca. Luca, guarda, sono disperato, dammi una mano. La farei volentieri, se potessi, perché sto girando il primo film di Muccino. Ma chi è questo Muccino? Ma pianta, diventerà famoso, se lo dici tu. La cosa finì lì. Il giorno della presentazione io ero solo, no, con il testo delle mie poesie. Quando vedo Luca, vedi che ce l'ho fatta, Freddy, sono qui con te. E dico, grazie. E davanti a noi c'erano tutti questi Ferlinghetti, Salsimic, altre muse importantissime. E Luca incominciò con la sua con la sua voce splendida, meravigliosa. E ad un certo punto mi disse, ora devi continuare tu. Continuare io, Luca, ma ti rendi conto? Devi farlo, perché devi leggere forse la poesia che ogni figlio vorrebbe scrivere per la propria madre. Io dissi, no, ti prego, quando mi sento toccare la spalla, mi giro, ciao Freddy, sono la figlia di Arthur Miller. Allora, scusate un attimo, allora ho detto, sì, non posso tirarmi indietro. La notte colpì il sonno dell'invasore. Le stelle caddero, le armi si sciolsero nell'abbraccio del figlio alla madre. E quando mi svegliai, capii di essere diventato poeta. Con Luca De Filippo avrei dovuto lavorare ancora, soprattutto per Binari Interrotti. Avrebbe dovuto recitare con Enzo Avitabile, questo grande, e poi morì, era malato di cuore e non ce la fece. Ma quante cose. Senti, e il viaggio più importante della tua vita? C'è un viaggio più importante degli altri? Che ti ha segnato di più, che ricordi con maggiore forza? Cuba e poi anche l'America, gli Stati Uniti d'America. C'era mia madre che nella sua infinita bontà, poi con i ricatti di madre, per carità, era uguale a tutte le altre, mi diceva: Freddy, sei insopportabile, come fanno i tuoi amici, i tuoi colleghi a sopportarti, sei logorroico, non so veramente, solamente io tuo padre, perché siamo i tuoi genitori, ti sopportiamo, ma persino le tue sorelle. Io dissi: sono ancora peggio, ho detto. Poi, quando me lo diceva, improvvisamente entravo nella magia del cinema. Sì, tutti questi attori, questi registi mi stavano aspettando. È come se mi dicessero: ma finalmente ti sei rifatto vivo. Panamore Fantasia, Kubrick, Lolita, Coppola, Fellini, Bergman. È un mondo fantastico, stupendo, e ogni volta che mi sento disperato e vorrei dire basta, non voglio più continuare, mi imbergo in questa realtà stupenda, indescrivibile. Sul tavolo metto la mia macchina fotografica, la spolvero, poi prendo la penna. Non uso il computer, la metto sul foglio bianco e dico: sì, in questo momento io sto toccando il cielo. Senti, ci racconti del tuo incontro con Tennessee Williams? È stato un incontro molto particolare, perché io pensavo, lo posso anche dire, no? Bello com'era che lui mi adescasse. Forse all'inizio l'ha fatto. Poi invece ci accominava una simile disgrazia. Anche lui aveva avuto una sorella particolare che venne allontanata dalla famiglia e messa in un ricovero. Anch'io ho avuto una sorella deforme, se possiamo avere, che a 10 anni poi la mettemmo in un istituto. E Tennessee Williams mi diceva: se noi non avessimo avuto queste sorelle così, come sarebbe stata la nostra vita? Io mi ricordo che mia madre, che era bellissima, si metteva davanti allo specchio e diceva: come ha fatto una donna così bella a partorire un mostro? E piangeva. Mia madre smise di insegnare e si chiuse in casa, sempre turcandosi. Ci leggeva Ibsen e poi un giorno ci raccontò: ora vi voglio raccontare di una donna stupenda, Milady di Dumas. E tutte le donne dovrebbero essere come lei. Mio padre ritornava dal lavoro, si metteva al piano e suonava Chopin. Tutta la nostra vita, Ibsen, Milady, Chopin e tutte le cose più belle, che ti condizionavano, il cinema. Mia madre adorava Godard e quando lo andai a vedere, andai a vederlo solo, avevo 12 anni, uscì, il film era Fino all'ultimo respiro, un film incredibile con la James Sieber, che io conobbi poi a Parma, perché stava girando un film con Tognazzi e Jean Belmondo, ed era talmente bello, non lo capii, per quando uscì dissi ai miei genitori: non ho capito un cavolo, però questo film cambierà il cinema. Infatti fu così. E la cosa simpatica è che avevo una zia che si chiamava Margherita, come nome di mia madre, stava a Livorno, e dopo aver visto un film io le mandavo il giudizio per lettera e lei mi rispondeva. Ed era bello parlare di questo. Il cinema, sì, io penso che tutti il cinema lo dovrebbero vedere e amare. Ora fosse stato dimenticato, sul serio. Non ci sono più registi qualificati, attori splendidi, sceneggiatori coraggiosi. Dov'è Kubrick? Dov'è Gina Lollobrigida? Dove sono? Non ci sono più. E allora divento triste e dico: io adesso provo io a scrivere per il cinema. È quello che sto facendo, con molti rischi, con la speranza poi di riuscire a farlo, perché per me è indispensabile. Stai scrivendo un film? Due ne sto scrivendo, e devo dire che uno stava per uscire davvero, con un grosso editore, lo devo dire, non dico il nome, per carità. Un film che parlava dell'incontro tra Eisenstein e Buñuel la notte di Natale nel 1930 ad Hollywood. Un libro che mi ha dato un sacco di gioia. Questi personaggi, il cinema di allora, gli intrighi, poi la crisi economica, Walt Disney, tutte cose incredibili. Melendietic, che sapeva suonare il piano ed era bravissima, per dire. È un libro che stava per uscire, poi per delle incomprensioni, senza fare i nomi, per l'editore e per chi mi aveva raccomandato, che è un notissimo psichiatra e scrive per il cinema, fa lì. E che ci rimise sono stato io. Però non demordo, perché è un film vero, dove io affronto la realtà di quegli anni, il cinema di allora, Charlie Chaplin, Greta Garbo, Marilyn Monroe, ma Marilyn dice soprattutto, che al di là della sua presenza scenica, fotografica, era una donna molto umana e molto coraggiosa. Questa è la mia vita, ma una vita che tanti giudicano stupenda. Io lo giudico a volte anche noiosa, perché a volte mi mancano gli stimoli di andare avanti, perché sono stanco, perché sto invecchiando, forse perché la fantasia mi sta venendo meno, ma il giorno dopo dico: no, sono cose sciocche, perché devo continuare. La fantasia non mi manca, l'intelligenza spero che continui, e poi una grande memoria, perché mi ricordo di tutto, sia delle cose belle che delle cose brutte. Sono qua. Fatemi le domande che volete. Sì. Volete. Scusa, però, volevo fare una domanda a loro. Ma un bel consiglio da dare a qualche giovane artista che dovesse iniziare adesso, con tutto il tuo cuore che hai, con tutta la tua passione, qual è la prima cosa che diresti a un ragazzo o una ragazza che venisse da te e dirti? La sua quotidianità. Perché la famiglia è la prima scuola della vita per tutti, nel bene e nel male. La famiglia nonostante tutto. Esatto, veramente. Forza ragazzi, sono qua. Non vi può capitare più di... Ti chiedo ancora una cosa io, se posso. Allora, tu hai girato il mondo, Cuba, gli Stati Uniti, Istanbul e chissà quanti altri posti. E poi Merano. Queste due dimensioni opposte. No, dico Merano, ci sono stato anche molto poco, perché ad un certo punto io, arrivato al primo liceo, dissi a mia madre: mamma, guardi, io qui a Merano non voglio più stare, vengo bocciato, siamo 35 in classe, non imparo niente. Mandami in un collegio. Il più difficile, io voglio imparare a studiare, a leggere. E così mi mandarono in un collegio molto particolare, un po' esclusivista, se vogliamo. E devo dire che da lì ho cominciato a vivere. Poi ogni tanto ritornavo a Merano, ritorno ora perché ho avuto dei problemi di caduta sulla nave, di cuore, eccetera, però me ne sto andando perché Merano a me non piace assolutamente. L'hanno profanata, l'hanno imbrogliata. Il quartiere dove io sono nato, Vicolo Steinach, era meraviglioso, incontravi tutti i personaggi di allora, le sorelle sante, l'antiquario, il collezionista nazista, poi i figli di Friauf, ma delle cose incredibili, veramente. E lì eravamo tutti uniti, quelli di lingua tedesca e quelli di lingua italiana. Eravamo molto uniti, ma una bella famiglia. Tanti amici che andavano poi a ballare assieme, che facevano i festini assieme. Poi tutto questo, lo devo dire, è stato annullato, completamente si è distrutto. Io lo devo dire, se ho potuto studiare, io e le mie sorelle, perché i contadini dalle valli scendevano e andavano a curarsi da mio padre, portando lo speck, le uova, le galline anche. E io a questa gente sarò sempre grato, perché amo il Tirolo di allora, non di ora, in mano a presuntuosi, arroganti. Questa è la verità. Infatti spero, appena sto meglio, ecco, sto già bene, di andarmene, dire basta. Non si possono assistere a delle scene, ecco, come abbiamo assistito durante queste elezioni. E qui mi fermo perché non voglio farmi nessun nemico. Sono stato cattivo? Ci penso alla morte, sai, davvero spesso. Però ho visto adesso in queste elezioni la sconcezza più disumana, la stupidità. Scusa, però vedo che la morte non è mai presente nei tuoi spiriti. Tu non hai mai. È come se tu non la vedessi. E la vedo adesso, la vedo, forse gli anni che passano. Magari. No, te lo dico a livello spirituale. Speriamo che sia così. Il dolore attraverso il tempo che non ha bisogno di parlare di questa cosa così banale, diciamo. No? E quindi, secondo me, tu puoi benissimo rilassarti su questo. Non lo so, gli anni passano e si sentono. Anche se mi mantengo bene, gli anni sono quelli. Sono quelli. Vado ancora a scrivere, sono agli inizi, davvero. Ma c'è quante cose, quante cose voglio ancora scrivere, fotografare. Infatti farò adesso il giro del mondo, così, all'avventura, veramente, prendo e andrò davvero. Ti vedi tipo on the road gli ultimi istanti della tua vita? Ma non lo so, vedere, la curiosità, chi incontro, chi potrò amare, chi non potrò amare, le illusioni, le storie, gli intrighi, ma soprattutto l'avventura. La cosa più bella che ho è il rischio. Dobbiamo rischiare se vogliamo continuare. Tu sei d'accordo? E vedo che questa parola rischio l'hai pronunciata molte volte, anche questa sera, quindi capisco che per te è un tema molto forte. Sì, è vero, per un artista è fondamentale affrontare il rischio e non averne paura. altrimenti si rischia di fare sempre le stesse cose, non c'è dubbio. Capisco che è importante per te. Qualche altra domanda? Sono qui. Può fare io una domanda, ecco, tornando un po' indietro, perché abbiamo parlato di Freddy Longo, artista, nelle sue varie declinazioni. Però io vorrei tornare indietro a quella proto scritto di cui ci hai raccontato nel brano sulla strage di Bologna, la cartella della gestante, che è stata la tua tesi di laurea, perché forse alcuni non sanno, ecco, che c'è stata un'altra vita prima. Vi dico, io nella vita ho conosciuto anche persone sbagliate, però ho conosciuto anche persone importanti che mi hanno aiutato nella mia crescita di uomo e anche di medico. Due sono le persone a cui sarò sempre legato, che non dimenticherò mai, davvero, Anita e Mario. Dico solamente i nomi. Sono state due persone fondamentali, non solo per me, ma per tutta la sanità di allora. E infatti furono loro che mi dissero: Freddy, perché non fai la cartella per la gestante, in modo che la gravida sia lei a gestire la propria gravidanza, senza ricorrere tutti i giorni al medico di base o così. E io l'ho fatto. Mi misi a sogliare 2500 cartelle in soffitta, perché allora non c'era l'aria condizionata. Le sfogliai una ad una, e poi riuscì a fare sì che questa cartella per la gestante... Scusa. Niente paura. Scusa. Niente paura. Sono cose che capitano. Meno male che capita ogni tanto. Così rompono la mia monotonia, no? È vero. Allora, con queste 2500 cartelle che io ho spolverato, siamo riusciti a fare questa cartella, in modo che a Parma, poi nel resto dell'Italia, tranne che in Alto Adige, che è stata portata 8 anni dopo, lo dico perché è la verità, ecco. Abbiamo dato... È Marilyn che ti chiama? O la Callas? Grande donna la Callas, eh? Allora, diciamo, questa cartella è stata fondamentale. Quante donne da allora sono riuscite a gestire la loro gravidanza. Però io spesso, lo devo dire, questi due amici non li dimenticherò mai. Davvero, senza di loro forse a certi livelli mai sarei maturato. E saranno sempre accanto a me, davvero. Grazie a Luca De Filippo, grazie a Anita, grazie a Antonio e grazie a tutti quelli che mi hanno sopportato, ai miei genitori, alle mie sorelle. E grazie a voi che siete qui, che vi ho imbambolato, che vi ho annoiato. Ma vi perdonate? Mi perdonate? Certo. Ecco, vorrei dirvi una cosa. Io ho amato 4 vive in maniera splendida, no, unica al mondo. Prima Gina Lollobrigida, Fan Amore Fantasia, Fanfan La Tulipe. Poi Marilyn, poi Jean Moreau, la classe di Jean Moreau, che meraviglia, e poi Bardot, la Bardot, che bella. Poi James Seberg anche, ma un'attrice molto sfortunata che ha pagato con la vita le proprie scelte che lei ha fatto. Domandatemi ancora qualcosa sulla mia pazzia, sulla mia irruenza. ditemi, su, avanti, sono qui, ma non vi capiterà più un'occasione così. Forza, dai, avanti. Avete qualche curiosità, no? Ecco, io vorrei ringraziare due amici che sono qui, che sono i miei vicini di casa, no? E senza di loro non riuscirei a scrivere diciamo, nulla, perché mi aiutano con nei computer. Sono loro che mi fanno tutto. Senza di loro sarei disperato, davvero. Vede? La quotidianità. Devi essere amico di tutti. Devi capire gli altri. Dico bene? Ditemi, sono qua, ragazzi, ditemi. Forza. Lei non mi dice nulla, signora? Mi dica qualcosa. Le piaccio, non le piaccio, sono antipatico. Io la conosco perché sono di Merano, quindi la conoscevo quando era giovane. Ed ero bello, ma dica, mi dica. Volevo solo sapere, una curiosità che non c'entra niente, ma di che segno è? Del leone. Hai capito. Dai, forza, lei signora, vestita di nero, molto bella. Ma lei mi ricorda John Crawford, davvero. No. Che la ricorda John Crawford. Ma anche Deborah Kerr, su, mi dica qualcosa. Davvero incuriosita, no? Mi dica. Mi dica, appunto per questo, le trovi. Ha detto che è ancora incomodato dei suoi racconti. Ma no, ma è la vita quotidiana. Sì, lo so, ma comunque... Ma cosa le piace di me? A parte il fisico, che sono ancora bello, no? Sono tanti trucchi che mi do la palestra. Mi dica. Continuava a dire bravo. Quello è vero. E cosa l'ha più colpita di me, signora? Mi dica. Ma i suoi viaggi, le sue avventure. Ma un piccolo particolare la va colpita di me. La mia presunzione, la mia irruenza. Bugiardo non sono mai stato in tutta la mia vita. Quello che ho ammirato è la sincerità con cui ha raccontato. Sì. Beh, veramente. Io ho affrontato la famiglia, ancora la sto affrontando. Ammiro quello che i miei genitori mi hanno dato, ma sono consapevole anche di quello che mi hanno tolto. Però li ho perdonati. Senza di loro non sarei arrivato qua. E li ringrazierò sempre, davvero. Avanti. Notario, qualcosa da chiedere? Siamo molto amici, i miei, e il notaio. Il notaio è stato un grande amico della mia famiglia, soprattutto di mia madre. Un giorno disse davanti a loro, e con grande coraggio, voi sarete belle, ma la classe di vostra madre e loro, mamma mia, ma ti hanno odiato davvero, ma lui, diciamoci, con molta naturalezza. E lei infatti ti adorava. Dov'è il notaio? Dov'è? Dimmi. Un altro mondo. Un altro mondo, sì. E anche avevamo lo stesso sentimento. Perché... avevamo donati simili, è vero, che ci hanno curato a certi livelli. È vero, è vero. Pensa che mia madre è vissuta al Cairo perché era figlia di un diplomatico, gioielliere, e lui e lei fu la prima a Palermo che ci mandò a studiare fuori l'inglese con papà, che gli ultimi capelli che aveva li aveva dritti, ma lei ha detto che la vita è loro, non è più nostra. E così ci ha instradato. E pensa che a 23 anni io ero già capo di gabinetto e commissariato del governo qua a Bolzano. Molto invidiato. Lo so questo. E la gente quando veniva e diceva, ecco, il vicecommissario del governo, sono io, sono io. E così hanno capito che la cultura non ha età. Non ha età, veramente. Ma penso che ogni genitore a noi abbia insegnato la cultura, no? A tutti voi, o no? Sbaglio, no? Giusto? A lei cosa ha insegnato, signorina? Mi dica. La cultura dei suoi genitori, che cosa le hanno insegnato? Mi dica. Ah, la cultura sono sempre dei fatti interessanti che interessano tutti. Ma cos'è per lei la cultura? Ma per voi cos'è la cultura? Cos'è la cultura per voi? Dai, forza. Profondità, bellezza. Poi? Passione. E poi? Per gli altri signori, cos'è? Io volevo chiedere una cosa. Quando ti venivano queste ispirazioni, tu prendevi degli appunti o ti sono rimasti in testa? Ho una grande memoria, davvero. Sento. Ho tutto... delle flesce? No, ce li ho tutti in mente, davvero. Ho sempre avuto una grande memoria che mi ha sempre aiutato. Mi ricordo tutto, sì, davvero. E spero che questa memoria, anche se ogni tanto mi cede, mi possa continuare. Diciamo, sì, per scrivere e soprattutto per non annoiare gli altri che mi sono accanto. Tu, attrice, dimmi, che impressione hai avuto quando mi hai conosciuto per la prima volta? Dimmi. Rispondo alla domanda che Freddy mi ha fatto, che impressione ho avuto io la prima volta che l'ho conosciuto. Allora, noi ci siamo sentiti veramente al telefono più volte prima di vederci dal vivo. Una volta che sono andata a Merano, ci siamo incontrati nella biblioteca civica di Merano e ci eravamo sentiti più volte, appunto, sulla domanda che cosa leggere a corredo di questa presentazione di Binari Interrotti, che è un libro diviso per capitoli ma solo per immagini, che parla solo con le immagini. E ho detto, non è qualcosa di attinente? E lui dice, no, ma te lo scrivo, come vi ha raccontato prima, insomma. E quindi, ma il giorno dopo avevo già 2/3 dei testi e dopo un'ulteriore mezza giornata c'erano tutti, molto più di quelli che in realtà ho letto, ce ne sono altri. E devo dire che io ho letto i testi prima di vedere il libro, avevo visto il video, ma ho letto i testi prima di avere il libro. E l'impressione che ho avuto del libro rispetto anche al montaggio cinematografico è stato che in questa progressione di foto suddivise per capitoli c'è un po' anche l'eclettismo di Freddy, perché lui è un po' così, ti racconta in un momento una storia ambientata appunto a Cuba, poi fa un collegamento sempre con ponti artistici e ti racconta dell'America, o viaggia per tematiche al femminile, quindi c'è sempre un po' questo spaziare, come se il tempo e lo spazio tutto sommato non fossero quella roba così rilevante che noi pensiamo siano. Perché è un po' come se la sua vita, è un po' come questo libro, no? Fatto per capitoli ma che poi si intersecano tra di loro. E quando poi ho avuto il libro in mano ho capito, mentre appunto noi nel video vediamo le immagini, le leggiamo anche con questo sottofondo di sonorizzazione, e noi qui nel libro ci possiamo soffermare quanto vogliamo a guardare i dettagli e i particolari. È un po' come fa Freddy, che a volte ti racconta una cosa piena di dettagli e l'altra volta te ne racconta una en passant. Non mi hai mandato al diavolo. Poi te ne racconta una en passant e poi ci ritorna sopra. È molto, molto affascinante questa cosa. Ma tu che sei un regista di fama, ma perché mi hai cercato? Dimmelo. Sono molto incuriosito. Dimmi la verità, dillo. Intanto sei tu che hai cercato me la prima volta. E poi ci siamo sentiti, ci siamo visti, ho già presentato un altro tuo libro 10 anni fa, sì, dalla Valeria. E la vita è così. E siamo ancora qua. Ci si incontra tra le persone in qualche modo simili, vicine. Si occupano d'arte, coraggiose, certo, perché per occuparsi, per vivere d'arte, posso ci vuole sicuramente un po' di coraggio. Cosa? Perché non è semplice seguire una serata con Freddy Lungo, lo dico facendo un complimento, perché si salta da un linguaggio all'altro, da un contenuto all'altro, e quindi presuppone che tutti siano molto attenti e soprattutto abbiano degli strumenti pazzeschi per seguire quello che... quindi diciamo che è sempre pieno di grandi stimoli, di tante sollecitazioni, e questa serata non ha sicuramente deluso le aspettative, no? Perché abbiamo visto già l'altra volta com'era ricca la serata, com'erano ricchi i contenuti, e anche questa sera, vedendo le foto, il filmato e ascoltando i testi che avete scritto e che avete elaborato, insomma, emerge questa poliedricità. Invito tutti a riascoltare, ecco, il podcast che abbiamo costruito, diciamo sul momento, anche se ogni tanto la voce andava e tornava perché il microfono si spostava, per poter anche riprendere il filo un po' del discorso e magari anche leggere il libro. Abbiamo qui preparato anche una vetrina di quelli che sono i libri e i testi, non solo di Freddy Lungo, ma anche qualcosa che si possa avvicinare al contenuto. E ecco, insomma. Quindi abbiamo, come biblioteca, siamo penso riusciti, ecco, a dare un'idea di Freddy Lungo, ma noi vorremmo, ecco, questa è un'anticipazione, visto che con cui vorrei anche chiudere il cerchio di questa serata. La biblioteca provinciale ha come compito quello di valorizzare. È vero che a Freddy Lungo Merano non piace, però in realtà è comunque sempre figlio di questa terra, io lo dico. E come tale vogliamo anche raccogliere la preziosa testimonianza della sua vita molto appunto vivace, curiosa, interessante, che può essere pericolosa, bellissimo, allora aggiungiamo anche questo aggettivo interessante, attivante. È vero attivante. Che sei pericoloso un po', te. È vero. E sicuramente faremo una video intervista, una delle tantissime che abbiamo qui, perché ci teniamo ad avere questo... E sarò peggiore ancora. Benissimo. È una promessa che ci tengo che venga mantenuta. Vi invitiamo anche a tornare, insomma, nella nostra sala, perché nei prossimi giorni, soprattutto la prossima settimana, avremo anche un gruppo di lettura. Io con questo piano piano darei il saluto e ringrazierei i nostri ospiti. Ringrazio Marco Bernardi di averci accompagnato di nuovo in questo percorso, in questa serata alla scoperta e alla riscoperta di Freddy Lungo. Ringrazio tantissimo il nostro autore e ospite d'eccezione, che è tornato a Bolzano e si è regalato al nostro pubblico. Perché voi mi avete... Certo. No, certo, insomma, siamo contentissimi di averla avuta con noi. Ringrazio Alessandra Limetti per le sue letture, per la sua professionalità e la delicatezza con cui sempre sa muoversi all'interno di contesti non sempre facili da comunicare, come in questo caso, che sono veramente molto sofisticati. Grazie a voi e a presto.